la notte di Natale, il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre. Famiglia è sorgente di vita. Angelus, 31 dicembre 2017. Celebriamo la Santa Famiglia di Nazaret. Il Vangelo ci invita a riflettere sull'esperienza vissuta da Maria, Giuseppe e Gesù mentre crescono insieme come famiglia nell'amore reciproco e nella fiducia in Dio. Di questa fiducia è espressione il rito compiuto da Maria e Giuseppe con l'offerta del figlio Gesù a Dio. Il Vangelo dice: portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come richiedeva la legge mosaica. I genitori di Gesù vanno al Tempio per attestare che il figlio appartiene a Dio e che loro sono i custodi della sua vita e non i proprietari. E questo ci fa riflettere. Tutti i genitori sono custodi della vita del figlio, non proprietari, e devono aiutarlo a crescere, a maturare. Questo gesto sottolinea che soltanto Dio è il Signore della storia individuale e familiare. Tutto ci viene da Lui. Ogni famiglia è chiamata a riconoscere tale primato, custodendo ed educando i figli ad aprirsi a Dio, che è la sorgente stessa della vita. Non c'è situazione familiare che sia preclusa a questo cammino nuovo di rinascita e di resurrezione. E ogni volta che le famiglie, anche quelle ferite e segnate da fragilità, fallimenti e difficoltà, tornano alla fonte dell'esperienza cristiana, si aprono strade nuove di possibilità impensate. La grande gioia di un figlio che cresce. Angelus, 31 dicembre 2017. Maria e Giuseppe, quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva, dice il Vangelo, e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Una grande gioia della famiglia è la crescita dei figli. Tutti lo sappiamo. Essi sono destinati a svilupparsi e fortificarsi, ad acquisire sapienza e a cogliere la grazia di Dio proprio come è accaduto a Gesù. Egli è veramente uno di noi. Il figlio di Dio si fa bambino, accetta di crescere, di fortificarsi, è pieno di sapienza e la grazia di Dio è sopra di lui. Maria e Giuseppe hanno la gioia di vedere tutto questo nel loro figlio. E questa è la missione alla quale è orientata la famiglia: creare le condizioni favorevoli per la crescita armonica e piena dei figli, affinché possano vivere una vita buona, degna di Dio e costruttiva per il mondo. E questo è l'augurio che rivolgo a tutte le famiglie oggi, accompagnando con l'invocazione a Maria, regina della famiglia. Thank you. la porta dell'accoglienza. Udienza generale, 18 novembre 2015. In verità sappiamo bene che noi stessi siamo i custodi e i servi della porta di Dio. E la porta di Dio come si chiama? Chi sa dirlo? Chi è la porta di Dio? Gesù. Egli ci illumina su tutte le porte della vita, comprese quelle della nostra nascita e della nostra morte. Egli stesso l'ha affermato: io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Gesù è la porta che ci fa entrare e uscire, perché l'ovile di Dio è un riparo, non è una prigione. La casa di Dio è un riparo, non è una prigione. E la porta si chiama? Un'altra volta, come si chiama? Gesù. E se la porta è chiusa, diciamo: Signore, apri la porta. Gesù è la porta. Gesù è la porta e ci fa entrare e uscire. Sono i ladri quelli che cercano di evitare la porta. È curioso, i ladri cercano sempre di entrare dall'altra parte, dalla finestra, dal tetto, ma evitano la porta perché hanno intenzioni cattive e si intrufolano nell'ovile per ingannare le pecore e approfittare di loro. Noi dobbiamo passare per la porta e ascoltare la voce di Gesù. Se sentiamo il suo tono di voce, siamo sicuri, siamo salvi. Possiamo entrare senza timore e uscire senza pericolo. La Santa Famiglia di Nazareth sa bene che cosa significa una porta aperta o una porta chiusa. Per chi aspetta un figlio, per chi non ha riparo, per chi deve scampare al pericolo. Le famiglie cristiane facciano della loro soglia di casa un piccolo grande segno della porta della misericordia e dell'accoglienza di Dio. È proprio così che la Chiesa dovrà essere riconosciuta in ogni angolo della terra come la custode di un Dio che bussa, come l'accoglienza di un Dio che non ti chiude la porta in faccia con la scusa che non sei di casa. Avete ascoltato La notte di Natale, il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre.